Radio 24 Reportage. Liguria sott'acqua, emergenza infinita, di Andrea Ferro. La Liguria è una striscia che si allunga sottile tra il mare, la collina e i monti. È una terra a gradini, di spazi confinati e di prospettive aperte verso l'infinito. Qui tutto non è convenzionale. Borghi che sono cartoline di inaudita bellezza, quartieri dove le case sembrano un greggio di capre arrampicate, con il cemento a soffocare non solo la vista ma pure il respiro, e neanche ci passa l'autobus. Ma quando il cielo spara le sue bombe, questa verticalità informe è uno scivolo d'acqua che rende tutto uguale, tutto in pericolo, trasforma gli spazi e la vita in una barricata sospesa nell'ansia. E sempre più spesso questa trincea rivela la sua fragilità. È abbattuta dai torrenti che esondano, è spazzata dalle frane che sono colate di fango e di pietre, altre bombe terra terra. Una litania di emergenze con i bollettini meteo non sempre capaci di presagirle. In poco più di un mese 13 giorni sono trascorsi con lo stato di allerta, praticamente uno ogni tre, e non è finita. Perché? Renzo Rosso, genovese, ordinario di idrologia al Politecnico di Milano. Che sia necessario l'adattamento climatico, gli scienziati lo avevano già detto 20-25 anni fa, e nello stesso tempo si è andati esattamente nella direzione opposta, no? Perché sono stati fatti per esempio i piani di bacino, sono stati sottoposti a vincolo delle aree, poi questi vincoli piano piano vengono in qualche modo superati perché ci sono problemi di tipo diverso, di tipo di sviluppo più o meno sostenibile, bisogna costruire il centro commerciale, bisogna costruire l'infrastruttura e diciamo il problema relativo ai corsi d'acqua è diventato sempre più marginale. La sera del 9 ottobre è successo a Genova con l'onda di piena del Bisagno che sembrava uno tsunami tra le case. Tre anni prima era stato il Ferreggiano a ghermire auto e passanti a Marassi. Lunedì sera è accaduto a Chiavari, prima una pioggia che sembrava sottile, poi il diluvio che sembrava universale. Ma veniva di brutto, eh? Non l'aveva mai vista così tanta? Una volta l'ho vista, però era dal 50 mi sembra, però così non credo che era come adesso, quella volta là. Torrenti che fino a poco prima erano un pelo d'acqua si sono gonfiati come un pallone fino a scoppiare. Subito il Rupinaro, poi l'Entella, il fiume che dà il nome alla squadra di calcio, quest'anno in Serie B. I caruggi diventano canali, le piazze laghi artificiali che si impadroniscono dell'antico centro commerciale. Siamo stati qua fino alle 3 di notte a cercare di tenere il posto perché continuava a salire l'acqua. L'acqua invade anche la chiesa delle Clarisse. Don Enrico Bacigalupo racconta. La chiesa è salva. Sì, un po' di fango ma senza guai, solo guai di spalare, ecco, poi non ci sono problemi per noi almeno. Subito scattata la mobilitazione? Sì, abbiamo cominciato a attivare un po' di ragazzi già stanotte, poi questa mattina, insomma dare un po' la mano poi anche poi ai negozi qui vicino perché il danno è più sul commercio che non semplicemente sulla chiesa. Le vallate dell'entroterra sono in ginocchio. Per soccorrere le persone ci vogliono i mezzi anfibi e i gommoni. Nella notte buia, la paura è nella voce di chi è barricato. La situazione è drammatica qua. Noi siamo bloccati al primo piano, non riusciamo a muoverci, i mezzi tutti allagati, impossibile muoversi. La luce del giorno, tra altri scrosci d'acqua, rischiara a malapena lo scempio e si spala, si asciuga, si sospira. Da mezzanotte si è cominciato a salire, fino alle 2 passate c'era mezzo metro d'acqua. Ho superato la tavola che arrivava qua. Mezzo metro d'acqua, qui tutto alto. È temuto che potesse accadere qualcosa di peggio? L'unica paura che avevamo qui è che cadessero le vetrine. Noi stamattina quando siamo venuti a aprire ci siamo trovati la sorpresa. La situazione è un disastro, è gravissimo, perché qui c'è da buttare via tutto, l'attività non so se ripartirà, perché già la situazione era drammatica prima, figuriamoci adesso. Garage allagati, magazzino allagato, macchina allagata. Quando è stata la piena del fiume il livello si è alzato quasi a un metro e siamo dovuti scappare, abbiamo dovuto evacuare perché era inutile, intanto non ci potevi fare niente. Ma in questi spazi senza pianure, dove tutto è una salita e una discesa, non ci sono più appigli e gli scivoli non sono solo di acqua. Il territorio saturo perde ogni posticcia solidità, quasi si squaglia. A Levi, alle spalle di Chiavari, verso la Val Fontanabuona, dalla collina soprastante è scesa una colata, una cascata di terra e di fango, vomitata da un terreno che non sa più trattenere il rigurgito di una violenza naturale. Si è sentito come un fracasso di alberi rotti, tutto è arrivato giù, una marea di alberi, pietre, fango, tutto. Io ero sul terrazzo, ho fatto tempo a entrare in casa, però non sono riuscito a chiudere la porta, la roba mi è entrata tutta in casa. Poi mi sono affacciato alla finestra, ho visto la casa dei vicini che è andata giù. Era rimasto in contatto telefonico con loro? Per un po' sì, però poi quando la faccenda si è fatta spessa non chiamavano, perché ci stavamo consigliando se andare via o stare lì. Quando abbiamo quasi deciso di andare via non si poteva più, perché c'era una marea tale di acqua che veniva giù che era impossibile uscire, uno veniva travolto. E lei ha visto poi crollare questo tetto? È crollato, non si è sentito, boh, non si è sentito, quelli sono rimasti sulla botta proprio, non ha gridato, non ha fatto niente. Gianni Levaggi ha potuto raccontare questa notte di tragedia. I corpi dei suoi vicini Carlo Armenise, 73 anni, e della moglie Franca Iaccino, di 69, sono stati trovati solo dopo 12 ore dai vigili del fuoco, che hanno scavato tra il fango e la paura che ne venisse giù dell'altro. Tra quel pugno di case affacciate sul torrente Lavagna c'è chi si è salvato, mentre lontano chilometri aveva pensato di non farcela. Lei era in casa? No, non c'era. Ero da mio figlio a mangiare, siamo partiti da Frisolino a venire giù con la bambina, è andata bene che c'era una frana, siamo andati indietro e poi siamo rimasti con l'acqua lì dal Vasco. Cioè, io penso bene che aveva la macchina grossa del suo chignò, l'acqua l'aveva macciando i sedili, non ti ho fatto i pompieri. Lei è stato salvato dai pompieri? Pompieri. Perché era rimasto intrappolato? Intrappolato, sì. Io, mia moglie, mia nuora, mio figlio, suo cognato e la bambina di 3 anni. Ci hanno tirato fuori i pompieri, è andato bene, un miracolo. Appena un anno prima, poco distante da Levi, due contadini erano stati spazzati via dalla piana dello Sturla, mentre con l'auto attraversavano un ponte. Storie di alluvioni tra il mare della Riviera e la Liguria di Campania. Storie che la cronaca racconta un mese dopo che Genova era andata sott'acqua, un'altra volta nella sua storia recente. Capitoli di una devastazione seriale. Qui il corso della storia è un ricorso continuo, con immagini che nel tempo sovrappongono gli stessi soggetti. Cambia solo la definizione, dal bianco e nero seppiato ai pixel grondanti di cromatismi. Cambiano solo le linee delle auto che la Pina ha trascinato come fuscelli, accatastandole una sopra l'altra. Stimare i danni è un esercizio quasi impossibile, perché non è solo questione di soldi, ci sono dignità ferite, c'è il coraggio di ripartire oltraggiato dall'incuria delle promesse mancate, svilito dagli errori del passato mai corretti. Dopo la devastazione, la burocrazia, che affonda i suoi colpi, stordisce con il fischio che ingarbuglia anche la clemenza. Paolo Odone è il presidente della Camera di Commercio di Genova. Ma sia la Camera di Commercio che tutte le associazioni di categoria hanno stigmatizzato il fatto che il presidente del Consiglio Renzi, il 15 ottobre, ha detto che avrebbe proposto al Ministero delle Finanze la sospensiva per quanto riguarda i tributi nazionali, e in realtà, quindi, forti di questa promessa, molte aziende hanno saltato il pagamento delle imposte e adesso il Ministero delle Finanze ha respinto questa ipotesi, per cui l'Agenzia delle Entrate dice che quindi ci sarà la necessità di pagarle in tempi brevissimi, e soprattutto ci sarà da pagare l'amore. Questo noi lo riteniamo veramente inaccettabile. Ci sono commercianti che a Genova hanno collezionato le alluvioni come campagne di guerra e mai si arrendono. Per esempio alla pasticceria Tagliafico, nel cuore della città, uno dei titolari al microfono di Laura Bettini. Dunque, noi siamo qua dal 35 e quindi abbiamo subito l'alluvione del 54, del 70, del 92, del 2011 e del 2013. Quindi la mia famiglia raschia fango da più di 60 anni. Siamo sempre ripartiti, ma dal 2011 ad oggi ci siamo sforzati, abbiamo investito per rinnovare i locali, sia dal punto di vista estetico del lato vendita, sia dal punto di vista organizzativo, dei macchinari, della logistica, del lato produzione. Quindi questa alluvione del 2014 colpisce due volte. Avete mai pensato di spostare il locale altrove? Sì, ma è vero, certo, ci stiamo pensando adesso come fare, come non fare, ma il cuore di Genova, allora spostiamo il cuore di Genova, perché questo è il cuore di Genova, il 20 settembre questa. Genova, che la storia rese superba e che nel tempo il declino ha mortificato. Se in passato è stata città di avanguardia commerciale, politica, sociale, ora lo è diventata per la sua fragilità. Ancora Renzo Rosso, ordinario di idrogeologia. Genova non è un caso a parte. Genova, molto spesso, io sono genovese, mi si diceva una volta che Genova era indietro di 20 anni rispetto, che ne so, a Milano dove vivo. In realtà, secondo me, Genova è avanti agli altri, nel senso che alcuni problemi che sta affrontando oggi a Genova diventeranno sempre più pesanti in tutto il paese. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.